qui, qui, cogne fra, dalla di là, a sparare parole a ripetizione, dalla di qua, nella piazza si sentono voci, panca bestia che passa con una ragazza. Rimango qua, come fra, manco fossi Jimmy Hendrix alla sua età, con un cannone in bocca a cantare, bella la, bella qua, bella uè, bella, a tutti quanti quelli del rap. Dobbiamo creare una situazione innovativa, la situazione è piena crisi di ipocrisia, ipocrita, la vita, ma iaia troia, se ci incontra la signora con la canna ci muoia. Per questo che fristo con mia fra, tutto il giorno fatti agli atti a cucci, dalla di qua, piazza bestia, comando, siamo Diego Armando, con la bomba Maradona nel palmo. Viviamo fino a quando stiamo male, chi non era ancestrale, vivo per tutti sti fra che fanno la rap, dalla di là. Siamo matti ma mica matti da stare in quei posti là, ci vogliono rinchiusi, ecco perché quando io esco con l'usi, per tirare giù l'ambulanza, dovessero venire mica per dirci dentro pure le nostre stanze, tiriamo fuori i coltelli mica come la prima volta, facciamo un punk a bestia, spacchiamo tutto e rimandiamo a cagare. Spacchiamo tutto, rimaniamo a cagare. Rimango qua con mia fra, dalla di là, richiami di mia mamma, che mi dice basta Lorenzo con sto rap, non capisci che diventi un problema sociale, cazzo sei già un po' normale, mica mamma fristo con mia fra, con la stica, mica stica, sta minchia fritta, ecco perché non si tromba, da vent'anni, i poliziotti, i pilotti, i dottori vogliono mandarmi alle loro armi, ma io non ci sto, mica plotoni, mica Kalashnikov, non voto il petrolio, neanche se mi iscrivo al partito dell'orgoglio, io voglio energia elettrica pulita per tutta la vita. Ecco perché sul mio tetto impianterò dei pannelli in Titan 3, eccezione wifi è magnifica, c'è tutto, venite a fare una ricca, con noi mica, una tipa che la dà facile mica, ci ho messo 20 anni a provarci e pure un no per lo starci, capito, 20 anni per provarci e pure un no per lo starci. Predetto, detto, quindi prima io non ti porto nel letto, ti spacco con un confetto fuori in Camporella, ti sbatto con un confetto in Camporella.